Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, oggi in una splendida città che si chiama Agrigento, nel Collegio dei Filippini, recentemente ristrutturato e che quindi rende ancora più bella questa città siciliana, si svolge un convegno dal titolo un po', come dire, roboante: Emergenze territoriali, psicologia del fenomeno mafioso e prospettive per lo sviluppo. Dietro questo nome molto complesso però si cela che cosa? Il tentativo di rendere concrete delle opportunità di sviluppo nella provincia di Agrigento, prendendo spunto prendendo anche, come dire, forza dai beni immobili confiscati alla mafia. Allora, noi per parlare di queste prospettive di sviluppo oggi abbiamo collegata con noi Maria Grazia Brandara, che è a capo del Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, perché questo convegno innanzitutto? Perché la sensibilità nell'area è forte, come dire, è penetrante, oppure è uno di tanti convegni che si organizzano tanto per fare un po' di scena antimafia? Mi piace questa sua premessa. Ovviamente, se volessimo fare l'ennesimo convegno, avremmo scelto altri interlocutori e altri relatori. Invece l'idea che noi vorremmo portare avanti è quella di, ci apprestiamo a svolgere un'indagine pilota, se così la possiamo chiamare. E infatti abbiamo chiamato, ci stiamo avvalendo, delle equipe di ricerca del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Palermo, che è coordinata dal professor Girolamo Loverso. Certo, che è uno studioso molto attento ai fenomeni della psicologia mafiosa. Lo ricordo, anche studioso per primo in Italia della presenza, diciamo così, degli omosessuali all'interno delle cosche mafiose. Una presenza molto ovviamente pesante. Quindi qual è lo scopo che voi volete raggiungere? Promuoviamo questo corso progetto con l'obiettivo di comprendere come pensa la mafia, come si muove nel territorio, quali fantasie, vissute, paure suscita nella comunità nostre siciliane e agrigentine in particolare. Certo, ecco, però ci intanto, sarà... entrando nel concreto di questi due giorni, che sono il 28 oggi e domani, in pratica, 28 e 29 di ottobre, come le dicevo, l'equipe che sarà coordinata sia dal professor Loverso che dalla dottoressa Coppola, che è dottoranda di ricerca, e loro introdurranno in mezzo agli studi condotti fino adesso, perché come lei ha ben detto è da 15 anni che si occupano della tematica, e avvieranno due sessioni di gruppo con gli intervenuti. Benissimo, benissimo. Ecco. Ci sarà un'interazione con una partecipazione che diventa volontaria dei cittadini stessi, perché offrirà la possibilità di uno spazio protetto, quindi non uno spazio coercitivo, in cui dare una voce alla narrazione della comunità. Benissimo, allora è molto interessante il fatto che però non c'è soltanto teoria e capacità di conoscenza della psicologia della mafia, ma voi portate avanti anche con un dibattito interno, voglio dire sul territorio, delle idee concrete. Ad esempio, recentemente ho letto su un sito, agrigentonotizie.it, che lei ha ricevuto una lettera da parte di alcuni sindaci, segnatamente quello di Naro, che dicono: cara dottoressa Brandara, che cosa ne pensa se noi impiantassimo e producessimo con il sistema del fotovoltaico energia pulita dove? Nei campi confiscati alle cosche agrigentine. Ecco, questa è un'idea concreta, no? Al di là della psicologia del mafioso, che è comunque un aspetto, invito tutti i radioascoltatori a non sottovalutarlo, questa è un'idea concreta. Che punto è questo dibattito e che cosa ne pensa di questa idea? Le dico subito, io intanto ho avuto anche l'onore di dirigere la comunità Narese, essendo restata sindaco fino al 2009, quindi conosco bene anche quei terreni. L'idea che ha avuto il sindaco Di Naro io la condivido, ma considero che era partita anche da noi, dal consorzio, per mettere a reddito i terreni confiscati alla mafia, che oggi secondo noi si possono mettere a reddito impiantando i campi fotovoltaici. Ecco. Rispetto al sindaco Di Naro differiamo soltanto in un'impostazione. Prego. Noi riteniamo che questa intrapresa economica deve rimanere in mano pubblica, perché la realizzazione del campo ovviamente deve essere effettuata da imprese specializzate individuate con le procedure di evidenza pubblica, e questa deve essere l'unica fase esterna al comune. mentre la gestione dell'impianto, ordinaria manutenzione, deve essere fatta a cura del personale comunale opportunamente formato. Allora, io voglio essere malizioso, poi ovviamente lei mi dirà: ma Galullo, ma che cosa sta raccontando, i seri ascoltatori? Non faccia il cretino, me lo dica pure tranquillamente, tanto io non querelo mai, anche perché mi fa piacere, soprattutto quando mi insultano, perché l'insulto mi carica. Allora, lei vuole dire questo qui: siccome c'è il rischio che la mafia penetri anche in questo momento che in realtà sarebbe di recupero, e quindi è bene che l'unico momento in cui dall'esterno altri entrino è quello in cui costruiscano. Poi, una volta costruito, però attenzione, signori miei, non ce n'è per nessuno, è la mano pubblica che lo gestisce, è così? Lei non solo, mi perdoni, non è cretino, come lei ha detto, ma è molto acuto, perché vede, l'intrapresa economica deve rimanere in mano pubblica, perché ogni ipotesi che dovesse favorire interessi privati finirebbe con il tradire lo spirito e la lettera della riunione. Ecco, allora le faccio una domanda ancora più cattiva, ma è così sicura che la mano pubblica sia sempre in grado di garantire dalle infiltrazioni mafiose? Per carità di Dio, non mi sto riferendo ovviamente all'amministrazione comunale X in questione o Y, in generale sto dicendo nel vostro territorio agrigentino. Ma guardi, io sono ottimista per natura e dico, ecco perché mi piace che lei ha messo insieme le due cose, quello del convegno con questa iniziativa concreta. Certo. È un fatto culturale. Però se per primi noi non siamo ottimisti e pensiamo in positivo, allora mettiamo le catene attorno a un'intera regione e guardi, mi trova perfettamente d'accordo con lei, lei ha perfettamente ragione, l'iniziativa non soltanto mi piace, non soltanto quindi oggi ne parliamo, ma mi piacerebbe anche seguirne gli sviluppi, mi dà una mano a farlo magari con gli atti del convegno? Sicuramente. Benissimo, guardi. Benissimo. In ogni caso, guardi, le dico, siccome parliamo di energia pulita, ebbene, noi vorremmo che campi, però c'è un discrimine rispetto alle terre, perché quelle terre che invece sono utili per uno sviluppo agroalimentare, certo, oppure che possano avere un adeguato intensivo agricolo, chiaramente devono rimanere impegnate per... Assolutamente per d'accordo anche su questo. Di quei terreni che non sono produttivi da un punto di vista agricolo. Benissimo, allora... Lì impiantiamo un'energia pulita per una società pulita. Allora, io ringrazio la dottoressa Maria Grazia Brandara, presidente del Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo, dico che oggi e domani ad Agrigento, nel Collegio dei Filippini, c'è questo convegno in cui teoria e pratica di recupero, diciamo così, del sistema mafioso si coniugano secondo me molto molto bene. Quindi ringrazio in regia Pietro La Corte, in studio Valeria Coffaro, e vi do appuntamento a domani. Però tanto prima vi ricordo il mio blog Guardi o Ladri, lo sapete, parlo di economia criminale e criminalità organizzata, e vi ricordo anche la nostra mail alla quale segnalare le iniziative di resistenza fattiva alle mafie, sottotitolo @radio24.it. Da Roberto Galullo una buona giornata.